la testa sotto la sabbia, spingila sempre più giù. Chiuditi gli occhi e tappa le orecchie per non sentire di più. Fammi un favore, regalati almeno un po' di sincerità. Anche il seme della realtà. È facile, si è troppo facile. C'è gente che muore di fame, che non ha niente per sé.